Abbiamo azzardato questa cosa di fare appunto, di invitare a parlare appunto agricoltori della zona e invece le altre persone che abbiamo invitato non sono agricoltori, ma sono agitatori, animatori, non lo so, vengono da esperienze le più disparate e in qualche caso anche esperienze invece che hanno condiviso percorsi come può essere stato quello di Critical Wine. E niente, cioè, ci piaceva l'idea di stimolarli in questo modo, cioè sulla base di quello che ci hanno raccontato oggi Renata, Nicolò e Gabriele, e vedere un po' che tipo di stimoli venivano fuori dai loro racconti. Io dico solo una cosa brevemente perché il tempo è poco e quindi non voglio togliere spazio ad altre persone. Però una nota così già un po', non dico polemica, però uno stimolo rispetto a questo discorso dell'agriturismo, al fatto che è vero, nel senso che comunque se immagino l'esperienza di Gabriele, di Nicolò, ma di altri che ci sono su questo territorio, ci sono delle esperienze veramente interessanti e veramente in qualche modo eversive, non tanto nel senso, però che trasformano le relazioni, il territorio, che dicono delle cose importanti e sono degli esempi reali. Però dall'altra parte mi sembra anche che ci sia una presa per il culo, lo dico così proprio direttamente, dietro queste cose, soprattutto da parte dei politici, da parte di agricoltori furbi, di tutta una serie di dinamiche che si innescano nascondendosi dietro a questa parola agriturismo o dietro ambiente, natura. Infatti noi questo tipo di rapporto col territorio, con gli agricoltori lo vediamo non solo come trasformazione paesaggistica, ma la vediamo come trasformazione sociale, economica. Il fatto che comunque Milano ha perso in poco più di 10 anni, 15 anni, mezzo milione di abitanti, ha voluto dire delle trasformazioni rurali, e in realtà dall'altra parte qualcuno ci sventola il prodotto tipico, il luogo dove andare a sfogare i propri ritmi frenetici della metropoli per professionisti e robe di questo genere. A noi questo non ci interessa innescare percorsi che siano reali e che coinvolgono tutte le persone. Non può essere una cosa esclusiva, non può essere una cosa del prodotto d'élite, come altre e altre esperienze legate a questi temi si sono costruite. Quindi ci piacerebbe innescare processi reali che parlano di cose di cui molti si riempiono la bocca, in molte situazioni ci si riempie la bocca. Ci piacerebbe innescare anche dei progetti piccoli, però reali, di filiera corta, di contrapposizione a quando c'è un discorso di grande distribuzione, perché è lì, cioè anche il discorso del centro commerciale noi la vediamo proprio come significativa di una trasformazione, di una distruzione di un territorio. Fisica, perché c'è un capannone di cemento che non può essere più riconvertito e per riconvertirlo costa soldi, energie, tutta una serie di cose. Qualitativa, nel senso del prodotto che ti viene offerto, la qualità del lavoro che produce quei luoghi. Dal punto di vista economico, nel senso che comunque il fatto, parlavo oggi con l'Aldrighetti Nicolò, un vignaiolo che ci ha portato le sue ciliegie e mi faceva vedere che il fruttivendolo qua di fronte vendeva le ciliegie a 4,90 e lui diceva: le mie ciliegie che ho assaggiato, sia quella del fruttivendolo, la sua, con una qualità differente, a me le comprano a 0,90. Quindi, cioè, tutti questi argomenti noi vorremmo, ci piacerebbe, stiamo lavorando e nel nostro piccolo, con percorsi auto-organizzati, lo vogliamo fare. Poi, se ci sarà una possibilità di interfaccia con le istituzioni che in qualche modo favoriscono questi processi, ben venga, discutiamone. Però noi lo vogliamo fare sulla base delle nostre relazioni. Poi, vediamo, no? Si possono fare le cose in grandi, si possono fare le cose in piccole, dipende. Noi, per la nostra esperienza, tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto senza bisogno di nessun altro. Non rifutiamo a priori il confronto con le istituzioni. Secondo noi ci sono le premesse per innescare dei percorsi interessanti. Sicuramente con gli agricoltori e con i produttori che abbiamo incontrato in questi anni. Vediamo, nel senso, ci piacerebbe innescare mi fermo e lascio la parola, non lo so, se c'è Pino, c'è Andrea, c'è Sergio, c'è Alice, giochiamocela un po' come vogliamo, se vi stimola questa cosa, insomma.